Era una notte buia in Bolognina, ma sentivo quel suono e mi piaceva. La stagione sonora del Binario 69, all'insegna della partecipazione e dell'accessibilità. Binario 69, via dei Carracci 69 7D a Bologna. Ingresso riservato ai tesserati AICS. Info sui nostri social. Vorresti seguire Radio Città Fujiko più spesso, ma per il lavoro e gli impegni hai poco tempo? Iscriviti alla newsletter settimanale Fujiko Weekly e ogni venerdì riceverai gratuitamente una selezione del meglio della produzione di Radio Città Fujiko. Se vuoi ricevere la newsletter per mail, inserisci il tuo indirizzo nell'apposita sezione sul sito www.radiocittafujiko.it. Se invece preferisci riceverla sullo smartphone, iscriviti al canale WhatsApp o al canale Telegram della tua radiolina del cuore. Trovi tutto sempre su www.radiocittafujiko.it. Vuoi imparare a usare la voce come uno speaker radiofonico? Intendo molto meglio della voce che stai sentendo? Allora iscriviti a Voice on Air, il corso di speakeraggio radiofonico di Radio Città Fujiko, in collaborazione con Rima Cheride e Teatro dei Dispersi. Imparerai le principali tecniche di respirazione, vocalità e lettura e potrai realizzare un prodotto radiofonico. Chiedi informazioni o iscriviti scrivendo a marketing@radiocittafujiko.it o telefonando allo 051 3464 58. Caricamento di banda 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti. Velocità smodata! Via! E siamo tornati a tuono. Salve a tutti, benvenuti e bentornati qui su Radio Città Fujiko 103.1 in FM, www.radiocittafujiko.it. Se ci state ascoltando grazie alla mirabolante tecnologia dell'internet, di certo non della mia favella che già ora si sta incartando, benvenuti e bentornati qui su Panta 80, edizione per questo lunedì di supplenza, perché il buon Panta vi abbraccia tutti quanti, sta bene, tranquilli, un po' di acciacchi quelli diciamo che oramai possiamo definire stagionali, quindi così mi ha detto Andrea: queste sono le chiavi della Panta 80 Time Machine, mi fido di te. E io ogni volta lo guardo con l'occhio della serie: sei sicuro di essere ancora nel pieno delle tue facoltà mentali? E lui mi risponde sempre con lo sguardo: sì. Va bene, comunque, Panta 80, questo 22 gennaio in cui l'inverno finalmente si è ricordato che, insomma, deve fare il suo dovere a gennaio, deve fare freddo, quindi l'unico problema, almeno per il sottoscritto, che è stato in Abruzzo, in terra abruzzese, in terra natia, i giorni scorsi fino a questo fine settimana, è che mercoledì, giovedì e venerdì ho lasciato Bologna sui 3 gradi, 4 gradi, 2 gradi, così, e sono arrivato a Teramo con 18 gradi e mezzo. Quindi capite che l'escursione termica mi ha un pochettino destabilizzato. Poi si è ricordato anche lì l'inverno: ah, forse dovrei fare freddo. E siamo ricatapultati dai venti, letteralmente, di venerdì, ai 2 gradi di sabato scorso. Ma a parte questo, io direi che, oltre all'inverno, è arrivato anche in tutto il suo effettivo funzionamento, insomma, la città zona 30. Io e Panta settimana scorsa ci abbiamo ironizzato anche sul fatto che Bologna, con i nuovi limiti di velocità, 30 km orari in molte strade appunto di Bologna, insomma, ha creato un po' di disagi. Ora, a prescindere che si sia d'accordo o meno, comunque c'è sempre quel momento di riprendere, ricalibrare le misure. Io vorrei chiedervi come vi state, insomma, come vi state rapportando con questa nuova realtà, voi o amici automobilisti, ma anche insomma motociclisti, perché comunque si parla anche di voi, insomma, di vetture e motocicli motorizzati. Ditecelo, ditemelo, perché sono letteralmente curioso, ripeto, a prescindere che si sia favorevoli, si sia contrari o si sia neutri, perché no, ditemelo al 333 1809 494 tramite SMS, WhatsApp, Telegram, piccioni viaggiatori, segnali di fumo un po' difficile in radio, comunque direi, bando alle ciance, partiamo direttamente, anche direi con un pochettino di classe, perché vi ho ricicciato fuori un Prince d'annata che secondo me questa canzone qui i più se l'erano dimenticata. Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88. Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade. This one's for all the fast girls in the house. Guess I should know the way you parked your car sideways wouldn't last. So you're the kind of person leaves and make it out once, love them and leave them. Guess I must be dumb. Should a pocket full of horses strolled in a summer room. But it was Saturday night, guess it makes it alright. You see, what if I got to lose? Honey, close my eyes when you drove me to the place where horses run free. I felt a little ill, I saw all the pictures, the Negroes that were there before me. I started to worry, I wondered if I had enough laughs. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You said, baby, have you got enough gas? Yeah. E questo era Prince con Little Red Corvette, che Corvette, scusate, perché si parla appunto dell'autovettura. E sì, io comunque sono sempre grezzo e feroce, sono quello che ha, diciamo, il pensiero laterale, talmente laterale nella trasmissione che va solitamente fuori porta proprio, e quindi ho dovuto mettere anche un intro, diciamo così, sbarazzina da Ritorno al Futuro. Comunque, personalmente, questo brano qui di Prince, ammetto candidamente, non lo conoscevo. Il bello di Panto 80 è anche questo, il bello di cercare un po' di fare delle playlist di volta in volta un pochettino, diciamo, varie, è che scopri delle cose di cui ignoravi l'esistenza, lo devo dire candidamente, ed è bello, insomma, tirar fuori queste perle ed emozionarsi ancora a 37 anni per un brano che ne ha, oh mio Dio, siamo arrivati ben oltre i 40, perché questa versione, tra l'altro, era un live dell'82, del 1982. Comunque, diciamo che siamo partiti abbastanza alla grande. Io vi ricordo, insomma, un po' l'argomento è questo, ma ripeto, solo per mera curiosità, come vi state trovando con la città 30, come si suol dire, come viene definita quest'oggi Bologna? Ma semplicemente perché son curioso un po' dei vari aspetti. Quindi niente, così. Comunque, io direi che nel frattempo che, insomma, ci iniziate a scrivere al 333-1809-494, intanto vedo che già stanno arrivando i primi messaggi, direi di andare spediti così sulla autostrada di Panta 80, dove per l'appunto Doc ci ha detto che qui in questo caso noi non abbiamo bisogno di strade ma solo di frequenze radiofoniche. Continuiamo con la playlist, continuiamo a ricicciare fuori qualche cosa di un po' particolare, come si suol dire, e questa volta andiamo direttamente con i Rush. No, non Spirit of the Radio, non altre cose, questa è comunque ugualmente famosa, ma è un po' di quelle che devi iniziare a essere un po' quantomeno estimatore della band. Questa è Limelight, che è una figata. Stage approaches the unreal. For those who think I E questi erano i Rush con appunto Limelight, una delle canzoni ogni volta che l'ascolto dico cavolo, ma è vero, esiste anche lei ed è una figata ogni volta perché mi sorprendo sempre. Il bello di avere la memoria un po' fallace da questo punto di vista. Comunque alle 21:17 c'è il buon Alberto che per l'appunto ci ha contattato via WhatsApp per quanto riguarda insomma Bologna, città dei 30 km orari, e non è esattamente diciamo contento, perché comunque insomma dice che è un'operazione un po' diciamo un po' di facciata, diciamo un po' fallace, ecco insomma, che in più con i vari altre problematiche che ci sono, per esempio anche il People Mover che costa 25 euro, in effetti un po' così, e ci sono insomma un pochettino di malumori. C'è qualcun altro che invece per l'appunto è contento perché vede che c'è può essere un inizio per una svolta, come tutti i nuovi inizi c'è un periodo di assestamento, come si suol dire, e quindi tempo al tempo, e poi si risolverà tutto e tutti gli ingranaggi andranno poi a oliarsi per bene. Questa è l'altra parte, diciamo l'altra faccia della medaglia che alcuni di voi ci stanno descrivendo. Ma tornando un attimino ai Rush, perché mi sono gasato come una bestia. ci sono le persone, molte persone che bramano in una qualche maniera il ritorno, anche se purtroppo Nilpert non c'è più. E c'è Geddy Lee che ha detto lui vorrebbe tornare in tour insieme a Alex Lifeson, però dice sempre attenzione alle parole che dico, ovvero sia che sono molto attento con le mie parole quando ne parlo, perché la vita è cambiata molto dal nostro ultimo concerto, dice Alex per quanto riguarda appunto la storia dei Rush e della possibilità di tornare in tour. Sono molto attento con le mie parole quando ne parlo, perché la vita è cambiata molto dal nostro ultimo concerto e non sto diventando esattamente tanto giovane. E così, certo, mi piacerebbe sedermi con Al e scrivere del nuovo materiale, ma non posso immaginare di suonare la musica dopo la morte di appunto Neil Peart. Poi lì ha continuato dicendo che insomma è stato in una band con le stesse identiche persone per quasi 45 anni, e solo per girarmi e continuare a farlo gli sembra un po' sbagliato, però ecco, ha questa dualità, quindi per quanto riguarda possibilità di sentire qualcosa di nuovo dai Ei Furono Rush, forse non nell'immediato ma nel futuro ci sarà. Ovviamente non useranno mai, perché sono stati chiari fin dall'inizio che non useranno mai più il nome Rush, se mai dovessero tornare in giro a suonare, però chi lo sa. Invece sapete chi è che sta per tornare, sia con un lavoro in studio sia con un tour, che ci sono delle date, qualcuno parla di maggio, qualcuno parla di giugno, ancora ci sono notizie ufficiose eccetera eccetera, probabilmente a Firenze, gli AC/DC, e noi ce li andiamo a sparare con un classicone. Qua torniamo ai classici con TNT. Sì, non è degli anni 80, è del 1976, ma chi se ne frega. See me ride out. 'Cause I'm TNT, I'm dynamite. TNT, and I'll win the fight. TNT, I'm a power load. TNT, watch me Io vi avevo detto, insomma, non si sa esattamente se gli AC/DC cioè si sa che torneranno in Italia, però forse maggio, forse giugno. Allora, nelle ultime 20 ore circa, 24 ore, ecco, è spuntata su acdcitalia.com, che non è il sito ufficiale, però diciamo è di quelli, tra virgolette, certificati, chiamiamoli così, è spuntata la data ed è spuntato anche il luogo. Si dice, attenzione, questa ancora non è ufficiale come informazione, è ufficiosa probabilmente il segreto di Pulcinella, ma viene indicata come data per il ritorno dei Angus Young e soci qui in Italia il 25 maggio. La location, Campovolo, quindi Reggio Emilia, 25 maggio. Ancora stiamo aspettando l'ufficialità di questa informazione, però ecco, se volete iniziare un po' a farvi qualche calcolo, avete già un po' delle basi su cui per potervi muovere, se insomma vi interessa. Io mi ricordo un concerto degli AC/DC, non perché l'abbia visto, ma perché ero sulla 14 di ritorno così a casa, e vedevo nel 2015, correva l'anno 2015, vedevo il finale dall'autostrada con i fuochi d'artificio. Cioè era una cosa talmente enorme, soprattutto io all'epoca, che il concerto più grande sì è stato 60.000 persone per Gemma all'epoca, però insomma vedere i fuochi d'artificio, sapere che quei fuochi d'artificio sono di un concerto che si teneva un qualche chilometro di distanza, mi aveva fatto un pochettino impressione. E vi dirò di più, avevo anche rosicato, e non poco. Comunque, sono le 21:27 e qui continuano a fioccare un pochettino di messaggi per quanto riguarda, insomma, quelli che sono le opinioni per i limiti di velocità 30. E qua c'è un nostro amico che non si firma, ma dice che vive sulle quattro ruote tra furgoni, bimbi da portare a scuola e tutto il resto, ed è d'accordissimo sui 30 all'ora. Tutti più piano, tutti più sicuri. Tutti più sicuri, scusate, soprattutto per i miei bimbi. D'accordissimo, ma il secondo messaggio non lo leggerò, però ti dico, non si fa. Miguel, ti voglio tanto bene, ragazzo, mi hai strappato un sorriso comunque. E quindi, come stavamo dicendo, ci sono i pro, ci sono i contro, c'è chi è a favore, chi contro, ma è questo, ragazzi. Il mondo è bello perché è vario. Inizio a tacere perché sennò continuo a dire le frasi fatte. Sono le 21:28, sapete che c'è di nuovo, sapete che c'è. Noi andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo e torniamo. Io ve lo dico, già l'ho messo in playlist, un pochettino più metallozzi. La seconda parte di Panto 80 quest'oggi sarà un pochettino metallurgica. Piccolo spazio pubblicità. L'arte bolognese è più viva che mai. Il Museo Civico del Risorgimento organizza Bologna Pittrice il lungo 800. Fino al 17 marzo, visite guidate, laboratori, una rievocazione storica e tre grandi mostre dedicate alla pittura bolognese dall'età napoleonica all'inizio della Grande Guerra. Ti aspettiamo per scoprire insieme il grande patrimonio artistico della città di Bologna e dei suoi pittori. Iniziativa promossa dal settore Musei Civici di Bologna. Informazioni su museibologna.it. Oh no! Mi sono entrati i ladri in casa! È già la seconda volta! Pensavo che la mia porta blindata fosse sicura. Mi hanno portato via tutto. Ma, signor Rossi, qui ci vuole un professionista serio. Chiami la BM Security di Bertozzi Marco. In tempi rapidissimi le sostituiranno le serrature e aggiorneranno il livello di sicurezza. Così avrà una casa più sicura. BM Security di Bertozzi Marco. Fabbri di famiglia a prezzi onesti. 346 708 20 65. Grazie signora Laura, lo chiamo subito. 346 708 20 65. Vuoi imparare a usare la voce come uno speaker radiofonico? Intendo molto meglio della voce che stai sentendo? Allora iscriviti a Voice on Air, il corso di speakeraggio radiofonico di Radio Città Fujiko, in collaborazione con Rima Cheride e Teatro dei Dispersi. Imparerai le principali tecniche di respirazione, vocalità e lettura e potrai realizzare un prodotto radiofonico. Chiedi informazioni o iscriviti scrivendo a marketing@radiocittafujiko.it o telefonando allo 051 3464458. Inizia ora la seconda parte di Panta 80. E siamo tornati dopo le pubblicità per il giro di boa qua su Panta 80, Radio Città Fujiko 103.1 in FM oppure www.radiocittafujiko.it se ci state ascoltando dall'internet, oppure sapete che ci sono una novità e mezza. Dico mezza perché una in realtà è una cosa che oramai c'è da un po' di tempo, un po' di mesi, anzi no, addirittura un anno o due se non vado errato, ovvero sia l'applicazione di Radio Città Fujiko sia per sistemi iOS, quindi Apple, sia per i dispositivi Android. La scaricate dai vari Play Store o Apple Store. E lì potete non solo ascoltarci via digitale, attenzione, ma addirittura potete rimanere aggiornati su quelle che sono le notizie e gli articoli che la redazione di Radio Città Fujiko scrive di giorno in giorno. Ma in più, visto e considerato che quest'oggi, insomma, il nostro sistema di comunicazione preferito è per l'appunto WhatsApp, c'è anche il canale ufficiale di Radio Città Fujiko. Basta che lo cerchiate, vi iscrivete, non vi preoccupate, è assolutamente gratuito, quindi lì potete rimanere aggiornati su quella che è la newsletter o le varie notizie, tranquilli, non vi ammorbiamo ogni 12 secondi e mezzo con cose scritte, ok, ma informazione puntuale. Così come l'informazione puntuale è che da poche ore pure è uscito, anzi da poche ore un ciuffolo, venerdì scorso è uscito il nuovo singolo dei Judas Priest, perché tra poco torneranno con un nuovo album. Sì, Rob Halford non canta più, non strilla più, raga, c'ha oltre 70 anni, povero Cristo, che deve fare ancora? Anzi, evviva che siano riusciti i Judas a cambiare un minimo il loro stile iconico, trasformarlo in base a quelle che sono le esigenze fisiche che delle persone non più giovanissime, non più esattamente atletiche, devono sostenere. E quindi vi piazzo là così il nuovo singolo di Judas, che è comunque abbastanza morbido per il loro standard, si chiama Crown of Horns, quindi corona di corna, rock and roll, 100% heavy metal classico proprio, signore e signori, anche dal titolo. Taccio e ce l'ascoltiamo e poi facciamo un po' di considerazioni, perché no, perché no, perché no. Yeah. Insomma, questo è il nuovo singolo dei Judas Priest. Parere personale? Allora, non è una brutta canzone se uno non conosce Judas, se gli piace un certo tipo, questo alla fine non è nemmeno più metal, è un ballatone un po' che richiama insomma quelli che erano i fasti degli anni 80, sia dei Judas ma sia anche di loro colleghi un po' più leggeri dal punto di vista delle distorsioni. Insomma, comunque l'album uscirà, se non ricordo male, a marzo, il Invincible Shield. Sono curioso perché Firepower l'avevo apprezzato, Redeemer of Souls, che è quello di cazzarola oramai 10 anni fa, mi era piaciuto particolarmente. Questo vediamo. Parentesi nella parentesi, per chi è amante di Judas, è uscito a ottobre, novembre, comunque fine 2023, l'album di Kiki dei KK Priest, fondati dall'ex chitarrista KK Downing dei Judas, per l'appunto. E quello, insomma, per chi è orfano un po' delle sonorità più tipicamente Judas, sembra paradossale, ma potrebbe avere una gran bella sorpresa. È un bell'album, grezzo, feroce, 100% classic heavy metal. Non chiedetegli assolutamente in alcun modo di essere originale o quantomeno innovativo, non c'è nulla, però è heavy metal fatto bene. Ma alle 21:41 arriva un altro messaggio, questa volta dagli SMS, da un nostro ascoltatore che, per quanto riguarda sempre i pareri su Bologna città a 30 km orari, dice: grande Bologna, unica in Italia a fare il limite 30. A Londra e Parigi esiste, Roma e Milano sono indietro alle metropoli dette. Quindi, insomma, un punto di vista in cui si dice che, per il fatto di Bologna città 30, di essere al passo con le controparti europee. Va benissimo anche così, ma io direi di continuare con la cavalcata che stiamo facendo così un po' in solitaria, col braccetto braccetto fuori, perché fa un freddo porco comunque, come abbiamo detto inizio puntata, e non voleva essere un gancio ma lo diventa questa cosa che ho appena detto, con il prossimo pezzo, che sono le Bangles. Ve l'ho già detto, senza che vi dico il titolo del brano. Mi scuso ufficialmente, perché anche qui c'è un intro un po' scema, un po' scemetta, però mi sembrava giusto. Visto e considerato che c'è l'inverno, visto e considerato che qualcuno dice: bah dai, non fa così tanto freddo, e dice: l'inverno sta arrivando. È arrivato già da un po', ragazzo, già da un po'. Around, grass is high, feels alright. Sì. Comunque, Easy Shade of Winter, perché sì, una scelta un po' scontata, ma è sempre un piacere, perché no, poterla riascoltare di tanto in tanto. Un giorno devo fare uno scherzetto al buon Panta e mettere questa canzone qui, tipo il 28 di giugno con 45 gradi all'ombra. Così, giusto per avere la falsa impressione di avere un leggero fresco tra i capelli, che non abbiamo né io né Panta. Comunque, a parte queste cose qui, alle 21.45 il delirio oramai proprio impereggia qui sulla Panta 80 Time Machine. E nel frattempo che ci avviamo verso la fine di questa puntata e lasciandovi in buone mani con gli amici di Balla e Difendi, ci sono un sacco di altre notizie, in verità, che vi vorrei dare, un sacco di altre informazioni per quanto riguarda, che ne so, per esempio il fatto che Ronnie James Dio, ovviamente, pace all'anima sua, non c'è più da un bel po' di anni, ma nel corso di questi, dell'ultima decina d'anni più o meno, c'era stata una operazione tra la nostalgia e il what the fuck, che poi hanno ripreso i Kiss. Sì, stiamo parlando degli ologrammi. Praticamente ve la faccio breve per chi non lo sapesse. Al Wacken del 2013 o 2014, comunque 10-12 anni fa, hanno sperimentato per la prima volta questa tecnologia della di far comparire, insomma, il cantante sotto forma di ologramma, mentre c'era il resto della band in carne e ossa a fare un vero e proprio concerto, che è una situazione un po' straniante, perché sai che non è lui, però sembra, soprattutto da lontano. Il risultato già all'epoca era stupefacente. I problemi erano due. Uno, che appunto parte del pubblico, dei fan di Ronnie James Dio, in qualche modo era incuriosito e, diciamo, approvava l'operazione, se non fatta in maniera esageratamente perpetrata nel tempo. Altri invece l'hanno semplicemente odiato, hanno detto è una cosa vomitevole, proprio non c'erano scale di grigio in questo fatto. O piaceva, o quantomeno si apprezzava il tentativo, oppure veniva proprio denigrato. Nel 2021 c'era l'eventualità di ricominciare questa operazione, di riprendere in mano questa operazione con un po' di concerti con Ronnie James Dio ologramma e band vera e propria, ma è notizia di questi giorni che Wendy Dio, la vedova di Ronnie James Dio, ha detto no ragazzi, è stato un esperimento, abbiamo provato, abbiamo visto che potrebbe funzionare, ma non ho voglia di portarlo avanti, anche perché ho letto tra le righe, fondamentalmente anche lei faceva un po' di impressione dopo tutto. Ma comunque, almeno ci si è provato, si è visto il responso qual è stato, e arrivederci e grazie. Chi ha potuto vederlo dal vivo, comunque, insomma, ha assistito a un evento oramai, possiamo dirlo, irreplicabile, e quindi noi invece ci andiamo ad ascoltare Don't Talk to Strangers di Dio, direttamente da Holy Diver del 1983, uno dei dischi, signori miei, se vi piace un po' di rock, un po' di heavy metal, ma della musica in generale, che almeno una volta dovete ascoltare, almeno una volta, per cultura personale proprio. They're only there to do you harm. Don't write in starlight, 'cause the words may come unreal. Don't hide in doorways, you may find a key that opens up your soul. Don't go to heaven, Io vi avevo avvertito, la seconda e ultima parte di Panto 80 Supplance Edition sarebbe stata un pochettino più metallosa, ecco, però dai, Ronnie James Dio, gli si vuole bene, tutti vogliono bene Ronnie James Dio. E alle 21.54 la Panto 80 Time Machine non è che vede il garage, stiamo proprio infilando la macchina nel garage, a proposito insomma di ritorni e viaggi sulle strade così. Io vi ringrazio tutti quanti per essere stati qui con noi, uso il plurale dannazione, non tanto perché ho delle manie di grandezza, ma perché insomma faccio anche le veci del buon Panta. Noi vi lasciamo con gli amici di Balle di Fendi, non prima però di avervi dato una notizia, perché io questa l'ho letta poco fa, letteralmente poco fa. Finiamo anche tra l'altro con un pezzo di Phil Collins allucinante, sì, andiamo proprio in basso, anticlimax allucinante, vi dico già, In the Air Tonight. Perché? Perché sapete, conoscete i Blink 182, no? Conoscete Travis Barker, il batterista? Ebbene, lui durante gli EMI 2024, che si sono svolti proprio di recentissimo, è riuscito a realizzare il sogno della sua vita, ovvero sia suonare il fill di batteria proprio di In the Air Tonight. Voi immaginatevi Travis, insomma ce l'avete presente com'è, a suonare quella canzone, questa canzone. Lui era felicissimo, era talmente felice che a un certo punto, sì, faccio il saccente di sta ceppa, ha sbagliato ad andare a tempo anche, però capisco che era emozionato davvero e quindi gliela si lascia passare tranquillamente. Noi ci sentiamo lunedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22, la prossima volta anche con Panta, e vi aggiungo anche che parleremo dei dischi, degli album che nel 2024 ci fanno sentire ancora più vecchi perché compiono 40 anni. Alla prossima, ciao! So you couldn't wipe out that grin. I know it.